Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. Nadine e Lambert vennero a Saint-Martin. Non sembrava che andassero più molto d'accordo. Nadine non disse una parola durante tutto il pranzo. Lambert doveva partire 2 giorni dopo per la Germania per prendere informazioni sui campi della zona russa. Di comune accordo, tanto Robert che lui evitarono di abbordare il fondo del problema, ma discussero con animazione le modalità pratiche dell'inchiesta. Al caffè Nadine esplose. «È una triste scemenza tutta questa storia. Certo che esistono questi campi. È una cosa ignobile. È una cosa necessaria. È la società, insomma, e nessuno può farci niente». «Tu fai presto a prendere partito», disse Lambert. La guardò con rimprovero. «Per sbarazzarti delle faccende che ti imbarazzano sei veramente dotata». «E tu? Non hai già preso partito anche tu?» disse Nadine con voce aggressiva. «Ma andiamo, sei felicissimo di poter pensare male dell'Unione Sovietica e grazie a questa storia adesso te ne andrai in giro a fare l'importante, capirai che bel merito!» Lambert alzò le spalle senza rispondere, ma la notte nel padiglione certo litigarono. L'indomani Nadine passò tutta la giornata in sala di soggiorno, fingendo di leggere un libro. Inutile parlarle, non rispondeva che a monosillabi. La sera Lambert la chiamò dal giardino e come lei non rispondeva, entrò in casa. «Nadine, sarebbe ora di andare?» «Io non vengo», rispose. «Basterà che sia a Vigilance domattina alle 10». «Ma t'ho già detto che io devo essere a Parigi questa sera, devo vedere delle persone». «E vedile, non hai bisogno di me per questo». «Nadine, non fare la stupida», disse Lambert con impazienza. «Non resterò con loro che un'ora al massimo, avevamo detto che saremmo andati al ristorante cinese». «Ho cambiato opinione, anche a te succede, no? Resto qui». «È la nostra ultima sera», disse Lambert. «Sei tu che l'hai deciso». «Va bene, allora domani», disse Lambert in tono brusco. «Domani sono occupata. Al tuo ritorno». «No, allora addio per sempre, se preferisci», le gridò con voce furiosa. Richiuse la porta dietro di sé. Nadine mi guardò e si mise a gridare anche lei. «Soprattutto non dirmi che ho torto. Non dirmi niente. So tutto quello che puoi dirmi e non mi interessa». «Ma io non ho aperto bocca». «Che parta, che faccia questo viaggio, io me ne stra in fischio!» continuò a gridare. «Ma avrebbe dovuto consultarmi prima di decidere, e detesto che mi si dicano bugie. Quest'inchiesta non è così urgente. Avrebbe fatto meglio a dirmelo in faccia, ha voglia d'essere solo, perché è questo in fondo, vuole poter piangere tranquillamente il suo caro paparino». «È normale», dissi. «Normale? Suo padre era un vecchio porco, prima di tutto non avrebbe dovuto riconciliarsi con lui, e adesso eccolo che piange come un bambinetto! Ha pianto, vere lacrime, l'ho visto!» disse in tono trionfante. «E con questo? Non c'è da vergognarsi?» «Nessuno degli uomini che conosco avrebbe pianto, e il più bello di tutto è che per darsi l'aria più tragica pretende che il vecchio non è morto così, che gli hanno fatto la festa!» «Non è impossibile», dissi. Diventò tutta rossa. «Non il padre di Lambert. È ridicolo!» Subito dopo cena se ne andò a fare un giro fuori. Non la rivedemmo che la mattina dopo, a colazione. Fu allora che, con aria di rimprovero e di avida curiosità, mi tese la prima lettera di Lewis. «C'è una lettera dall'America», disse, e aggiunse squadrandomi con insistenza. «Da Chicago?» «Grazie». «Non l'apri?» «Non è niente di urgente». Posai la lettera accanto a me e cercai di bere il mio tè senza che la mano mi tremasse, ma m'era difficile tenere insieme i pezzi del mio corpo. Trovai un pretesto per tornarmene in camera mia. Avevo le dita così intorpidite che strappai, togliendolo via dalla busta, il foglio di carta gialla da cui tra un istante sarebbe miracolosamente sorta la presenza sconvolgente di Lewis. La lettera era scritta a macchina. Era gaia, gentile e vuota. Per un lungo momento contemplai con stupore la firma che la chiudeva, implacabile, come una pietra tombale. Avrei avuto un bel rileggere 100 volte quella pagina, rileggerla e martirizzarla. Non sarei riuscita a spremerne una parola di più, non un sorriso, non un bacio. E potevo ben ricominciare ad attendere. Al termine della mia attesa non avrei incontrato che un altro foglio di carta. Lewis era rimasto a Chicago. Continuava a vivere. Viveva senza di me. Ma accostai alla finestra, guardai il cielo d'estate, gli alberi felici e compresi che solo allora cominciavo davvero a soffrire. Lo stesso silenzio. Ma non c'era più speranza. Questo silenzio sarebbe durato sempre. Ora che i nostri corpi non si toccavano più, che i nostri sguardi non si incontravano più, cosa avevamo più in comune, noi due? I nostri ieri si ignoravano, i nostri domani si fuggivano. Intorno a noi non si parlava la stessa lingua, gli orologi si burlavano di noi. Qui brillava il mattino e nella camera di Chicago era notte. Tutto un altro cielo. No, da lui a me non esistevano passaggi, salvo questi singhiozzi che avevo in gola e che reprimevo. Nadine restò a Parigi tutta la settimana. Quando si fece rivedere a Saint-Martin le chiesi notizie di Lambert, mi disse che le aveva scritto e che sarebbe tornato tra una settimana. «Ci sarà burrasca», aggiunse con voce giubilante. «Ho rivisto Jolie e siamo riandati a letto insieme. Figurati la faccia di Lambert quando glielo racconterò». «Nadine, non raccontarglielo», mi guardò sconcertata. «Ma hai ripetuto 1000 volte che le persone pulite non debbono mentirsi. Franchezza prima di tutto». Lambert arrivò 2 giorni dopo, parlò poco del suo viaggio, disse solo che contava di ripartire in settembre per raccogliere informazioni più precise. Con Nadine parevano riconciliati, prendevano insieme lunghi bagni di sole nel giardino, passeggiavano, leggevano, discutevano, facevano progetti. Lambert si lasciava coccolare da Nadine e si piegava con buona grazia ai suoi capricci. Ma di tanto in tanto sentiva il bisogno di provarsi la propria indipendenza e allora inforcava la motocicletta e filava via con una velocità che spaventava evidentemente lui stesso. Nadine aveva sempre odiato la solitudine altrui, ma alla sua gelosia questa volta si mescolava l'invidia. Di fronte alla resistenza di Lambert e alla mia proibizione formale, aveva rinunciato a guidare la moto. Aveva allora cercato almeno di appropriarsela in un altro modo. Aveva dipinto i parafanghi di rosso e attaccato dei feticci al manubrio. Ma malgrado questi sforzi, la motocicletta restava ai suoi occhi il simbolo di tutti i piaceri virili di cui non era lei la fonte e che lei non poteva neppure condividere. Era il pretesto più frequente dei suoi litigi con Lambert. Una mattina scesi in giardino di buon'ora. Sotto il cielo azzurro reso più tenero dalla pioggia della notte, la campagna era ancora sconvolta. La strada era piena di buche, il prato coperto di rami morti. Stavo disponendo le mie carte sulla tavola bagnata quando intesi il rombo della motocicletta. Nadine filava sulla strada accidentata con i capelli al vento e la veste rialzata sulle cosce nude. Lambert uscì dal padiglione, corse fino al cancello gridando «Nadine!» Poi tornò verso di me con un'aria perduta. «Non sa guidare», disse sconvolto. «E con la tempesta di stanotte la strada è piena di rami spezzati, di buche, succederà una disgrazia». «Nadine è prudente, a modo suo», dissi per rassicurarlo. Se avessero voluto aiutarsi l'uno con l'altro, forse Nadine e Lambert sarebbero riusciti insieme ad accettare la propria età, il proprio sesso, il proprio posto reale sulla terra. Si sarebbero decisi a volerlo. Lambert restò a colazione con noi. Esitava tra la paura e la collera. «Questo passa ai limiti dello scherzo», disse d'un tratto agitato. «Non si ha il diritto di mettere paure simili alla gente. È una cattiveria, un ricatto. Un buon paio di schiaffi, ecco cosa meriterebbe». «Non pensa che voi siate così inquieto», dissi. «E sapete, non è il caso. Probabilmente sta dormendo in un prato prendendo un bagno di sole. A meno che non sia in un fosso con la testa rotta, disse. È pazza, una vera pazza. Aveva un'aria davvero angosciata e lo capivo. Io ero molto meno tranquilla di quel che pretendessi. Se fosse successo qualcosa ci avrebbero telefonato, mi diceva Robert. Scesa la sera, stavamo pensando di telefonare alla gendarmerie dei dintorni quando finalmente udimmo il rumore della moto. Lambert uscì sulla strada prima di me. La moto era coperta di fango e Nadine anche. Mise piede a terra ridendo e vidi Lambert assestarle due schiaffi a tutta forza. «Mamma!» Nadine gli si era lanciata addosso e lo schiaffeggiava a sua volta, gridando «Mamma!» con voce acuta. «Non avete vergogna!» dissi separandoli come avrei separato due bambini. «Ma battuta!» gridava Nadine con voce isterica. «Senti!» dissi. Lambert ha avuto gran torto a schiaffeggiarti, ma è naturale che fosse fuori di sé. Abbiamo avuto tutti una paura terribile. Abbiamo creduto che ti fosse successa una disgrazia. Di questo se ne sarebbe infischiato. Pensava solo alla motocicletta, ha avuto paura che gliela rovinassi. Mi scuso, Nadine, disse Lambert penosamente. Non avrei dovuto, ma ero sconvolto. Avresti potuto ammazzarti. Ipocrita, te ne infischi e lo so. Se crepassi non te ne importerebbe niente, ne hai ben sotterrata un'altra. Come osi? Tu che hai tradito Diego con tutto l'esercito americano! Lacrime di rabbia scorrevano sulle guance di Nadine. L'ho forse tradito morto, ma tu hai lasciato che tuo padre denunciasse Rosa quando era viva! Lambert tacque un istante, poi disse: Non voglio più rivederti. Mai. Mai più. Inforcò la motocicletta e io non trovai una parola per fermarlo. Nadine singhiozzava. Vieni a riposarti. Vieni. Mi respinse. Si gettò sull'erba gridando. Il figlio di uno che denunciava gli ebrei. E io ho dormito con lui. E lui m'ha presa a schiaffi. Ben mi sta. Mi sta bene. Gridava. E non c'era nient'altro da fare che lasciarla gridare. Paul passò l'estate da Claudie de Belzance e Josette andò a fare i bagni a Cannes con sua madre. Henri partì per l'Italia in una piccola automobile avuta d'occasione. Amava talmente quel paese che riuscì a dimenticare l'espoir, le serelle, ogni problema. Quando rientrò a Parigi trovò tra la sua corrispondenza un rapporto che Lambert aveva spedito dalla Germania e un fascio di documenti raccolti da Scriassin. Passò la notte a studiarli. Al mattino l'Italia era lontanissima. C'era un margine di incertezza considerevole sul numero dei forzati, ma una cosa era sicura. ed era che i campi in Unione Sovietica esistevano, su grande scala e in maniera stabile. «Dovrò dirlo», concluse Henri, «se no sarò complice, complice e colpevole di abuso di fiducia verso i miei lettori». Si sdraiò vestito sul letto, pensando: «Che bella prospettiva! Si sarebbe guastato con i comunisti, e allora la posizione dell'Espoir sarebbe diventata ben difficile». Sospirò. Era contento la mattina quando vedeva operai che compravano l'Espoir al chiosco dell'angolo. Ora non l'avrebbero comprato più. Ma come tacere? Per fortuna le circostanze gli lasciarono un po' di respiro. Né Dubreuil, né Lambert, né Scriassin erano a Parigi, e Saint-Mazel non fece che qualche vaga allusione alla faccenda. Henri si sforzò di pensarci il meno possibile. Del resto aveva molte altre cose da pensare, cose futili, ma urgenti. Le prove del suo dramma erano tempestose. Markov, il regista, era esageratamente slavo. I suoi capricci, estremamente frequenti, non erano per questo meno temibili, e Josette li subiva in lacrime. Vernon cominciava a temere uno scandalo, suggeriva tagli e modifiche inaccettabili. I costumi erano stati affidati alla casa a Marillis, e la Bellhomme rifiutava di capire che Josette, nel dramma, doveva uscire da una chiesa in fiamme e non da un salone di mode. Henri era costretto a passare ore al teatro. Lambert tornò dalla Germania 8 giorni prima della prova generale. Era cambiato. Dopo la morte di suo padre, era diventato chiuso e scontroso. Si mise subito a parlare in tono distaccato della sua inchiesta e delle testimonianze che aveva raccolto. Guardò Henri con sospetto. «Sei convinto o no?» «Sull'essenziale, sì». «Beh, è già qualcosa», disse Lambert. «E Dubreuil? Cosa ne dice?» «Non l'ho rivisto. Non si muove da Saint-Martin e io non ho avuto tempo di andarci». Lambert lo squadrò di nuovo con sospetto. «Personalmente, sei sempre deciso a parlare?» «Personalmente, sì». «E se il vecchio s'oppone?» «Consulteremo il comitato». Il viso di Lambert si rabbuiò e Henri aggiunse: «Senti, lasciami 8 giorni. In questo momento ho troppo da fare, ma andrò da Dubreuil subito dopo la prova generale e sistemeremo la questione». Aggiunse con voce amichevole: «Vado al teatro. Ti divertirebbe accompagnarmi?» «Ho letto il tuo lavoro. Non mi piace», disse Lambert. «È tuo diritto», disse Henri allegramente. «Ma avrebbe potuto divertirti assistere alle prove». «Ho da lavorare. Devo mettere in ordine i miei appunti». Ci fu un silenzio imbarazzato. Poi Lambert parve decidersi. «Ho visto Volange in agosto», disse in tono neutro. «Sta mettendo su un grande settimanale letterario e m'offre il posto di redattore capo». «Ho inteso parlare di questo progetto», disse Henri. «Le Beaux Jours, è ben questo? Immagino che non osi prenderne apertamente la direzione». «Vuoi dire che ha intenzione di servirsi di me?» «Effettivamente desidera che ce ne occupiamo insieme, ma la sua proposta non mi pare meno interessante per questo». «In ogni modo non puoi lavorare nello stesso tempo all'Espoir e in un giornale di destra», disse Henri con voce secca. «Si tratta di un settimanale puramente letterario. Dicono sempre così. Ma questa gente che si dichiara apolitica è sempre reazionaria, fatalmente». Henri alzò le spalle. «Insomma, come puoi sperare di conciliare le nostre idee con quelle di Volange?» «Non mi sento così lontano da lui. T'ho detto spesso che ho il suo stesso disprezzo per la politica». «Ma non capisci che questo disprezzo in Volange è ancora un atteggiamento politico? Il solo atteggiamento che possa permettersi per il momento?» Henri aveva parlato con calore, ma di fronte all'aria ostinata di Lambert si interruppe. Volange, certo, aveva saputo lusingarlo, e poi gli offriva la possibilità di confondere il bene col male in modo da assolvere suo padre e da giustificare il suo grosso patrimonio. «Devo trovare il modo di vederlo spesso e di parlargli», si disse, ma per il momento non ne aveva il tempo. «Riparleremo di tutto questo», disse stringendogli la mano. Durante le ultime settimane Henri aveva fatto del suo meglio perché il suo lavoro corresse il minimo di rischi, ma non aveva voluto interrogarsi sul suo valore, sulle sue possibilità di successo. S'era vietato sia le speranze che i timori. Ora sentiva questa prudenza abbandonarlo. Quel che aveva fatto era buono. Il pubblico l'avrebbe trovato buono. Il cuore gli batteva rapido la sera della prova generale, mentre spiava di dietro le quinte il grande rumore inarticolato che saliva dalla sala invisibile. Vanità, miraggi, erano anni che diffidava delle contraffazioni, ma non aveva dimenticato i suoi sogni di gioventù. La gloria. Aveva creduto in lei. S'era promesso di stringerla un giorno a sé, tra le braccia, come si stringe il proprio amore. È difficile da afferrare, la gloria. Non ha volto. Una volta, però, ne aveva inteso la voce. Era salito sul proscenio. Il suo nome aveva risuonato tra il fracasso degli applausi. Ora, forse, avrebbe conosciuto di nuovo quell'apoteosi puerile. Le sue illuminazioni cessarono di colpo. Batterono i tre colpi. Il sipario s'alzò su una grotta scura dove era seduta gente silenziosa, dallo sguardo fisso. C'era così poco rapporto tra questa presenza impassibile e il rumore di serraglio che aveva riempito l'ultima mezz'ora, che ci si chiedeva di dove coloro fossero sorti. Non sembravano del tutto reali. La verità era il villaggio calcinato, il sole, le grida, le voci tedesche, la paura. Qualcuno tossì nella sala e Henri seppe che erano reali anche loro. I Dubreuil, Paul, Lucie Bellhomme, Lambert, Yves Volanges, tanti altri che conosceva, tanti altri che non aveva mai conosciuto. Cosa facevano precisamente qui? Si ricordava d'un pomeriggio rosso di sole, di vino e di memorie sanguinose. Aveva voluto strapparlo a quel mese d'agosto, strapparlo al tempo. L'aveva prolungato in fantasticherie da cui aveva germinato una storia, da cui erano sorte le idee che aveva poi fissato in parole. Aveva desiderato che queste parole, quelle idee, quella storia acquistassero vita. Questa assemblea muta era là per dargliela. Scoppiò la raffica delle mitragliatrici. Josette traversò la piazza deserta nel suo vestito troppo bello firmato a Marillis e venne ad abbattersi sul proscenio, mentre dalle quinte salivano grida e ordini rauchi. Si gridò anche nella sala. Una donna impellicciata abbandonò la sua poltrona con fracasso. «Basta con questi orrori!» Tra i fischi e gli applausi, Josette lanciò a Henri uno sguardo fiducioso e gli sorrise con calma. Riprese a parlare. Anche Henri le sorrise con aria tranquilla e invece avrebbe voluto poterle suggerire parole nuove, parole convincenti, sconvolgenti. Non aveva che da stendere la mano per toccarle il braccio, ma la luce della ribalta l'escludeva da quel mondo in cui i momenti del dramma continuavano inesorabilmente a sgranarsi. Allora Henri seppe perché tutti coloro erano stati convocati, per emettere la sentenza. Sentì gridare ancora: «È una vergogna!» e non poteva dire una parola in propria difesa. Quando il sipario calò tra un fracasso d'applausi misti a qualche fischio, s'accorse di aver le palme madide. Lasciò le quinte e andò a chiudersi nell'ufficio di Vernon. Dopo qualche minuto la porta s'aprì. «M'hanno detto che non volevi veder nessuno», disse Paul. «Ma io non credo d'essere qualcuno». «Devi essere felice», aggiunse. «È un bello scandalo». «Strano trionfo», disse Henri. «Vedrai, al secondo atto tutti quelli che hanno applaudito si metteranno a fischiare». «Tanto meglio», disse Paul con superbia e aggiunse: «I Dubreuil sono estasiati». Naturalmente tutti gli amici si rallegravano del bello scandalo. Agli intellettuali lo scandalo pare sempre benefico quando è un altro a provocarlo. Henri solo sarebbe stato colpito dagli odi e dalle collere che stava scatenando. Degli uomini erano stati bruciati vivi in una chiesa e Josette aveva tradito un marito che la amava d'amore. L'emozione, il risentimento del pubblico davano una realtà a questi crimini di cartone e il criminale era Henri. Appoggiato a una quinta, nell'ombra, esaminava i suoi giudici e pensava con stupore: «Ecco cosa ho fatto. Sono stato io». Era passato un anno. Il sole d'agosto schiacciava ancora il villaggio scheletrico, ma croci erano spuntate sulle fosse, annaffiate con discorsi. L'aria era piena di fanfare tricolori e vedove in gramaglie sfilavano in parata con fiori tra le braccia. Di nuovo, dalla platea, salirono rumori ostili. m'accusano di insultare i morti mentre insulto i trafficanti di cadaveri, pensò. Ora le sue palme erano asciutte, ma sentiva nella gola come un vapore di zolfo. Sono così vulnerabile, si chiese con disgusto. Il sipario calò per la seconda volta e Henri prese un'aria disinvolta, non curante, per stringere la mano ai curiosi. Una vera sfilata da sacrestia. Ma si trattava d'un matrimonio o di un funerale? È un trionfo, gridò Lucie Bellon precipitandosi verso di lui. Ebbene, è andata, disse Dubreuil. La metà del pubblico è furiosa, l'altra è estasiata e 300 rappresentazioni sono assicurate. Thank you. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it